Barbarina. Chi va là? Son quelli che invitasti a venire. Che brutto ceffo, sembri un cospirator. Che diamin sono quegli infausti apparati? Lo vedrete fra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa onesta e del feudal signor. A buono, a buono, capisco come è lei. Accordati si son senza di me. Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado ad arcerto ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio, correte tutti quanti.